Food Lab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Oh, il futuro è sempre incerto, ma che bisognerà coltivare degli alimenti di cui non questa si scappa. Questa è l'unica certezza. Ecco. No, andiamo ad incontrare qualcuno che coltiva gli innovatori del cibo. Aspetta un attimo. Ci trasferiamo nella Food Valley italiana, che è, diciamo, una zona che identifica un po' l'Emilia-Romagna, tanto per intenderci. E quindi andiamo a trovare Sara Roversi. Ciao Sara, benvenuta. Ciao a tutti. Benvenuta. Tu sei fondatrice del Food Future Institute, che è dentro questo ecosistema che voi chiamate Future Food Ecosystem. Abbiamo detto che si trova, l'abbiamo già un po' localizzata, quindi in Emilia-Romagna, nella Food Valley, che è appunto una zona che sappiamo essere molto importante per l'agricoltura italiana. E abbiamo detto giusto che lì nel vostro ecosystem nascono i food innovator? Caspita, speriamo, certo, è una delle cose che noi cerchiamo di alimentare dalla mattina alla sera. Future Food Institute, che è questo istituto che si occupa principalmente di ricerca e cerca di ispirare, generare un impatto, diciamo, su tutta la comunità che ci accoglie, proprio partendo dal food. Come avete detto voi è a Bologna, ma in realtà nasce da ispirazioni che vengono un po' più lontano, nel senso che io e mio marito siamo imprenditori nell'ambito del food e assieme a noi ci sono docenti universitari, innovatori, altri imprenditori che operano appunto in questa filiera, e insieme 4 anni fa abbiamo cominciato a ricercare in giro per il mondo chi si occupava di innovazioni in questo ambito. Ed in realtà l'ispirazione che ha fatto nascere proprio questo istituto viene dalla Silicon Valley, dove io ho cominciato ad essere coinvolta all'interno del Google Food Innovation Hub, così come in altri contesti, e siamo entrati in contatto anche con l'Institute for the Future di Palo Alto, che è un istituto che dal suo nome proprio si occupa di futuro, di studiare il futuro, e ha un team di ricerca che si occupa proprio di food. Parlando con loro, io mi sono sempre posta come quella che porta non il vecchio, ma comunque la tradizione, perché noi italiani ci siamo sempre posti come quelli che portano sempre le cose come le faceva la nostra nonna. E parlando con loro sono stati proprio loro a dirmi: ma come, voi siete per noi l'esempio. E lì mi si è aperto un mondo. Sei illuminata. Loro mi hanno detto: voi che per noi siete la tradizione rappresentate in realtà la cosa da studiare, perché quelle che per voi sono tradizioni oggi sono innovazioni che hanno avuto successo. Beh, scusa, tempo. In effetti Sara, dalla Silicon Valley potrai importare tantissime idee molto innovative, però i campi, l'agricoltura e tutto il resto ce l'abbiamo noi, loro no, ecco. Bravi, ed è proprio così che siamo ritornati in Italia e abbiamo detto: caspita, noi in realtà possiamo diventare un territorio attraente per i giovani che vogliono studiare l'innovazione in questo settore, nel settore agroalimentare. Quindi l'idea è stata: cerchiamo di contaminare la nostra, in primis la nostra comunità, una comunità che è fatta di imprenditori, che è fatta di giovani promettenti food entrepreneurs, imprenditori nel food, nell'agroalimentare, e così abbiamo cominciato ad unire i puntini. Senti Sara, però, per come la mettevi tu prima, se là ci hanno fatto i complimenti per la tradizione, però non immagino che allora qui gli insegnate a zappare. Che tipo di esempi di nuove tecnologie cercate di far arrivare agli innovators? In che modo l'addestrate però sto futuro mix e tradizione? Allora, il futuro mix tradizione innanzitutto si allena cercando di creare contaminazione. Sono nati progetti che poi si sono trasformati in vere e proprie start-up proprio dall'incontro di ragazzi che vengono da contesti e background culturali totalmente diversi e magari le nostre imprese. Quindi da nuovi modelli di distribuzione del cibo, così come applicazioni che sono finalizzate a lavorare, diciamo, sulla motivazione nel scegliere alimenti più salutari e motivare ad adottare uno stile di vita sostenibile, così come nuovi modelli di produzione, distribuzione, packaging. Quindi quando si parla di innovation nella filiera del food, parliamo di un food che parte dal campo e arriva fino alla tavola, certo. Da strumenti di misurazione in ambito agrario, lavorare sui big data, sui grandi numeri che i nostri, magari alcuni sensori possono andare a rilevare in ambito agricolo per dare, ovviamente restituire informazioni che sono utili all'agricoltore, sì, per fare previsioni su come appunto coltivare nel modo più sostenibile e più efficiente. Però fare anche cultura di cibo diverso, mi pare di capire. Devono essere anche un po' manager nel diffondere un certo tipo di stile dell'alimentazione. Devono essere manager, ma secondo me le nuove generazioni già sono molto più responsabili, certo, di quelle passate, perché ora non c'è progetto che arrivi al nostro acceleratore che non abbia comunque un fondo di responsabilità a livello sociale, a livello ambientale, o sia finalizzato al farti vivere meglio, mangiare meglio. Sara, velocissima, in conclusione, voi lì nel vostro centro avete anche dei campi proprio materiali, sperimentali, dove applicate queste innovazioni? Sì, infatti prima all'inizio parlavamo di ecosistema perché il cuore è l'Institute, dopodiché sono nati l'acceleratore e una Future Farm, che è un'azienda agricola, diciamo, del futuro, dove ci sono 60 ettari in provincia di Ravenna, dedicati solo ed esclusivamente appunto ai giovani start-upper che vogliono testare le loro tecnologie, i loro robot, i loro droni, i loro sensori, realmente in un campo che in realtà è coltivato, è convertito a biologico e fa anch'esso, diciamo, sperimentazione sui temi di grani antichi e grani, diciamo, che possono darci prodotti con basso contenuto di glutine, quindi sperimentazione anche in questo ambito. Non avete zucchine da mandarci? No. Magari, mi piacciono molto le zucchine, ma non abbiamo articoli ancora. No. Va bene. Va bene, grazie Sara. Ciao, Roversi, Sara, in bocca buon al lavoro. Lupo. Grazie a voi. Seguiteci su Food Lab nelle prossime tante puntate.